Nella scorsa lezione di Mishnah abbiamo iniziato a elencare una serie di cose che sono simili ma che hanno una o più differenze e la Mishnah usa il termine en ben, non c'è differenza tra questa e quella, e la solamente l'unica differenza o le due differenze sono eccetera eccetera. Visto che siamo partiti parlando di questo, della differenza tra il primo Adar e il secondo Adar, quindi abbiamo detto non c'è differenza tra il primo Adar e il secondo Adar, se non che la lettura della Megillah e le mitzvot associate ad essa, quindi anche i giorni di Purim, tra virgolette, del primo Adar, quindi 14 e 15, sono comunque festivi, c'è il divieto del Hesped, dell'elogio funebre, c'è il divieto di fissare un Tanit, un digiuno. Per altre cose è solo diverso per la lettura delle Megillah e le mitzvot ad essa associate, quindi questo si fa solo nel secondo Adar. E da qui siamo partiti ad elencare diverse cose che sono simili ma diverse per alcuni punti o per un punto. Anche se non sono legate a Purim, la Mishnah va avanti ad elencare en ben, non c'è differenza tra questo e quello. Quindi quali sono gli altri casi che vediamo oggi? Siamo giunti alla Mishnah numero 7, Mishnah Zain del capitolo Aleph, del primo capitolo del trattato di Megillah, e la Mishnah dice così. En ben zav haroesh tei reiyot le roesh alosh e la korban. Allora, non en ben, non c'è differenza tra zav. Cosa è un zav? Un zav è un maschio, un uomo, che ha avuto una perdita corporale involontaria e rientra in una certa legge di impurità, di tumà, che è descritta nella Torah, che oggi non si applica a questa legge, si applica quando si possono portare le korbanot, e il zav che vede, haroe, che vede significa ha un'esperienza di questo tipo, shtei reiyot, due volte, due vedute si chiama, l'eroe shalosh, un zav che ha l'esperienza due volte, cioè un giorno e il giorno successivo, e un zav che ce l'ha invece tre volte, quindi tre giorni consecutivi. Per ciò che riguarda la halakha, che diventa, che assume uno stato di impurità e deve, dall'ultima volta che ha avuto l'esperienza, deve aspettare 7 giorni puliti, si chiamano Shiva Yamim Nekiim, senza niente. 7 giorni senza niente. Poi al settimo giorno può, deve andare al mikve, ok? E la sera, quando finisce il settimo giorno, può già mangiare cose che bisogna essere puri per mangiarli, come Kodashim, cose che provengono da un Korban o un Kohen, se può mangiare la Terumah, può rimangiarla solo dopo che ha aspettato 7 giorni puliti, è andato al Mikve e alla sera lì diventa puro. Se questo è valido sia per uno che vede per 2 giorni che vede per 3 giorni. L'unica differenza è la. Solamente la differenza sta nel Korban, e cioè che il Zav che ha visto 3 volte deve anche l'ottavo giorno, dopo che si è purificato e dopo che è andato al Mikve il settimo giorno, deve portare un Korban al Bet HaMikdash, solo se era per 3 giorni consecutivi. Per 2 giorni c'è il Quindi Korban, la halakha dei due e dei tre è uguale, la differenza è il portare il Korban, che questa mitzvah c'è solo, l'obbligo solo quando è per 3 giorni. non c'è possibilità che E diventi lui non impuro. può mangiare il Korban fino, non può mangiare Kodashim, scusami, fino a dopo che ha portato il Korban. Scusa? E non c'è possibilità che diventi impuro durante questi 3 giorni. Se diventa impuro, devi riniziare a contare. Non c'è Sì. all'inizio. Questa è una cosa, E poi eh? praticamente i 7 giorni vanno contati dal primo giorno, diciamo, Sì, dopo che non vede cinque, più, sì, non ha più emissioni, 78. e poi inizia a contare 7 giorni puliti, si chiamano. Shiva Yamim Nekim. Un'altra cosa, seconda differenza viene esposta in questa Mishnah. En ben, non c'è differenza tra Metzorah. Metzorah è colui che ha la Tzara'at, la lebbra che è descritto nella parasha di Tazria e Metzorah, nelle due parashiot. La differenza tra un Metzorah musgar, rinchiuso letteralmente, e Metzorah muhlat, Metzorah deciso. Cosa vuol dire? Se voi ricordate nella parasha di Tasria e Metzorah si descrive come si sa se una macchia sulla pelle effettivamente rientra nella cosa che si chiama Zarat o che è una cosa diversa, naturale, non legata alla Zarat. Il Kohen deve venire, controllare e vedere. Ora, in alcuni casi il Kohen potrebbe dire questa è Zarat. È deciso che questa è Zarat e lì c'è una regola che la persona deve andare fuori da casa, deve stare al di fuori dei luoghi abitati, deve, come una sorta di lutto, deve strapparsi la veste, non può tagliarsi i capelli. Questo è quando il Metzorah è deciso, è sicuro che è Zarat. E dopo, alla fine, dovrà portare delle korbanot, eccetera. Il Metzorah rinchiuso significa che in alcuni casi il Kohen potrebbe avere il dubbio, cioè in alcuni casi una macchia potrebbe potenzialmente essere Zarat, ma bisogna aspettare 7 giorni per vedere se si sviluppa qualcosa. Vuol dire se si allarga la macchia, per esempio, questa potrebbe essere un'indicazione che è effettivamente Zarat. Ma finché questo non avviene, deve rimanere rinchiuso, quindi sempre deve rimanere separato dagli altri, come se fosse deciso, ma non è ancora deciso. Alla fine dei 7 giorni il Kohen ritorna e vede se è allargata la macchia, se è Zarat deciso, allora rientra nella regola del Zarat deciso. Se no, è un Zarat solo Metzorah Musgar, è stato rinchiuso, ma ora è chiaro che non era una Zarat vera e propria. Tuttavia, c'è sempre da seguire una certa prassi. Qual è la differenza, quindi, tra il Metzorah rinchiuso, Musgar, e il Metzorah Muhlat, deciso? Ela solamente, dice la Mishnah, peria uprima, uprima. Il Metzorah che è rinchiuso è obbligato a fare peria, peria significa non può tagliare i capelli, deve lasciarli crescere, parua significa incontrollato, ok? La crescita dei capelli, e perimà, perimà significa strapparsi la veste come uno che è di lutto, esatto. Invece il Metzorah che è solamente rinchiuso non ha questi due obblighi qua, però deve sempre rimanere fuori dal luogo abitato, esattamente come quello deciso, e quindi la differenza si esprime in queste due cose, ok? Seconda cosa che adesso diciamo è sempre legato al Metzorah, alla Metzorah, ed è la terza differenza di questa Mishnah. En ben, non c'è differenza tra Tahor mitoch hesger, colui che è stato dichiarato puro, Tahor, dal Kohen. Quando è stato dichiarato puro? Mitoch hesger, dopo l'essere stato rinchiuso, quindi non era deciso, era rinchiuso e ora è stato dichiarato Tahor. La differenza tra questo e quello che invece diventa puro, le tahor mitoch echlet, dopo che era invece deciso che aveva la zarat sicura e adesso diventa di nuovo puro, qual è la differenza nella prassi che devono seguire queste due persone che stanno in queste due situazioni? La differenza è solamente tiglachat vetziporim. Tiglachat significa radersi. Colui che diventa puro dopo il periodo che era stato rinchiuso con la sicurezza, era Muhlat, che era sicuro di essere Metzorah, lui deve anche radersi i capelli quando viene al Bet HaMikdash a portare le sue korbanot e deve portare, oltre alle korbanot normali, anche Tziporim, anche due volatili come korban, come offerta. Mentre invece altri aspetti che sono legati alla purificazione, all'uscire fuori dallo stato di Metzorah, sono obbligatori anche per chi diventa puro solo dalla situazione di incertezza, quindi il rinchiuso, tra virgolette, Hesger, colui che era stato rinchiuso, anche lui deve andare al mikve, anche lui deve, i suoi abiti devono essere messi nel mikve, e questo vale per entrambi. Ma il tiglachat, cioè il radersi, e il itziporim, e il portare questi due volatili al Bet HaMikdash, questo è solo il Metzorah che è mitoch hechlet, quello che è stato è uscito fuori dallo stato di Zarat, il Metzorah, da uno stato di certezza. Quindi in questa Mishnah abbiamo studiato tre differenze. La differenza tra il Zav che ha visto due volte o tre volte, perché nel secondo caso ci sarebbe anche il Korban l'ottavo giorno, e la differenza tra il Metzorà rinchiuso con incertezza e quello con la certezza, che nel loro stato devono rimanere in uno stato uguale, solo la differenza è tra lasciare crescere i capelli e il strappare la veste, e nel momento in cui vengono purificati, quello che esce fuori dallo stato di incertezza a uno stato di purezza, anche lui deve seguire la prassi, eccetto il discorso del radersi e dei uccelli, dei volatili, che quello solo è applicato solamente a quello che esce dallo stato di certezza di Tzaraat. E così conclude la Mishnah Zayin. Vediamo la Mishnah Chet. La Mishnah Chet dice così: Ein ben Sfarim, non c'è differenza tra libri. Per libri qui non intendiamo libri stampati, anche perché non esisteva la stampa quando è stata scritta la Mishnah. Stiamo parlando di libri di Torah, Nevim e Ketuvim, cioè pergamene, rotoli di Tanakh, di Torah, come noi abbiamo, ma anche Nevim e Ketuvim. Quindi tutto il Tanakh, non c'è differenza tra le regole che si applicano ai Sefarim e quelle che si applicano litfilinu mezuzot. Qual è l'unica differenza, dice la Mishnah, e sentiamo fino alla fine della Mishnah, perché potrebbe sorprenderci quello che la Mishnah dirà, un attimo di pazienza. Ella solamente, she asfarim nichtavim bechol lashon, i Sfarim, quindi Torah, Nevim e Ketuvim, possono essere scritte sulla pergamena, ma in qualsiasi lingua, non solamente in ebraico. Utfilinu mezuzot e inan nichtavot ella ashurit, mentre invece tefilin e mezuzot possono essere, è permesso scriverle solamente nella scrittura Ashurit. Ashurit è un riferimento ai caratteri, quindi i caratteri che noi chiamiamo caratteri ebraici si chiamano Ashurit, però la lingua deve essere la Shona Kodesh, come abbiamo i Tefilin e Mezuzot. Questo è l'unico modo in cui i Tefilin e Mezuzot possono essere validi. Invece per i Sefarim potrebbero, teoricamente, secondo la Mishnah, essere validi anche in un'altra lingua. Ora, continuiamo un attimo. Ashurit è la forma del carattere? Ashurit è il nome del tipo di carattere che usiamo sulla Torah. Assiro. È il nome Ashurit, però non è Assiro. È legato. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dice, Af basfarim, anche per ciò che riguarda i Sefarim, c'è un limite. Non come ha detto il primo Tana della Mishnah, lui discute che si possono scrivere in qualsiasi lingua i Sefarim. Lui dice sì, c'è un permesso in questo riguardo della lingua, ma non per tutte le lingue. Lo hitiru sheikatevu, non hanno permesso i maestri che vengano scritti i Sefarim, ella yevanit, bensì solamente un'unica altra lingua che è yevanit. Che lingua è yevanit? Greco. Usando caratteri greci e lingua greca antica. La Gemara spiega che abbiamo un'allusione nella Torah, Yaft Elohim li Yefet vi Ishkon Beole Shem. Shem, il figlio di Noè, è il precursore di Am Israel, noi veniamo da Shem. Invece Yefet è la parola Yafè, bellezza, l'altro fratello di Shem, il figlio di Noach. A lui viene attribuita una certa bellezza, come è scritto Yaft Elohim le Yefet. Il Signore ha dato bellezza a Yefet. Dove si esprime questa bellezza? Nella lingua greca, dicono i Chachamim, che deriverebbero da Yefet. Allora, la Gemara dice, la Halakha segue Rabban Shimon ben Gamliel, che il permesso di scrivere i Sefarim in un'altra lingua è limitato alla lingua greca, e il Rambam cita questa halakha come halakha decisa finale, ma aggiunge e dice che noi già al tempo del Rambam, quindi 850 anni fa, scrive che non abbiamo più la conoscenza della lingua greca originale di cui parlavano i Chachamim quando dicevano questo, e quindi oggi è permesso in pratica scrivere Sefarim solo Ashurit come Tefilin e Mezuzot. In altre parole, quello che stiamo studiando qui per noi oggi è solo teoria. In pratica non è permesso scrivere un sefer in un'altra lingua. Ora, Mishnah Tet, la Mishnah numero 9 di questo capitolo. La Mishnah dice così. Due en ben, due differenze. En ben, non c'è differenza tra Kohen Mashuach Beshemena Mishcha Limerube Begadim. Ora spiego. Kohen Mashuach ci ricorda la parola Mashiach. Cosa vuol dire Mashiach? Letteralmente, significato letterale? Unto. Mashuach significa unto, come Mashiach. Allora, un Kohen, stiamo parlando di un Kohen Gadol. Come si investe un Kohen Gadol? Come si fa sì che diventi considerato un Kohen Gadol? No, no, questo è per purificare dall'impurità della morte. È unzione del Shemen HaMishcha. C'è un'unzione dell'olio dell'unzione, l'olio che era stato preparato da Mosè, con il quale lui ha unto i Kohanim e gli oggetti del Bet HaMikdash per renderli sacri per il culto del Mishkan e del Bet HaMikdash, eccetera. Quando si investe un Kohen Gadol, si fa con il Shemen HaMishcha. Ora, questo è andato avanti in tutto il periodo del Mishkan, anche dopo che il Mishkan era già in Eretz Israel, per tutti i circa 4 secoli che il Mishkan era in Eretz Israel, prima che fosse costruito il primo Bet HaMikdash, e per gran parte del periodo in cui esisteva il primo Bet HaMikdash. Ad un certo punto, il re Yoshiau fece nascondere per protezione il Aron HaKodesh, l'arca con le tavole della legge, ed alcuni oggetti che erano vicini alla Aron HaKodesh, tra cui c'era un contenitore di manna, che se ricordate è scritto nella Torah che Hashem ha detto a Mosè: tieni questo che sia una cosa per le generazioni da vedere. E l'altra cosa che una delle altre cose che c'era era l'olio dell'unzione, Shemen HaMishcha. Questo Shemen HaMishcha è stato appunto nascosto. Quindi serviva un altro modo per far investire il Kohen Gadol, e cioè per farlo arrivare a quelli essere considerato Kohen Gadol, appunto. E la seconda modalità e possibilità di fare questo è attraverso il vestire gli abiti del Kohen Gadol. Solo il Kohen Gadol può vestire gli abiti del Kohen Gadol. Un Kohen normale veste quattro capi di indumenti. Il Kohen Gadol invece ha 8 capi, non tutti sono capi, alcuni sono come il pettorale, in ogni caso 8 cose che veste il Kohen Gadol. Abbiamo studiato nel trattato di Yomah. Ora, questo si chiama Merubè Begadim, quello che ha più vesti rispetto agli altri Kohanim, è solo uno, il Kohen Gadol. Quando lui veste queste vesti, con questo diventa Kohen Gadol, quando non c'è il Shemen HaMishcha, quando non c'è l'olio dell'unzione, ok? Allora, la Mishnah dice che nonostante il Kohen che è stato investito con la seconda modalità, quindi quella di seconda battuta, diciamo, che non è stato possibile investirlo con l'olio dell'unzione, e quindi è stato fatto solo con le vesti, è sempre considerato Kohen Gadol alachicamente, ma c'è una differenza tra lui e il Kohen Gadol che invece è stato investito con l'olio stesso. Qual è la differenza? La Mishnah dice, Ela solamente, par, il portare un korban di un par, un toro, haba al kol mitzvot, che viene portato per una di tutte le mitzvot. Cioè, se il Kohen Gadol, quello che è stato nominato Kohen Gadol con l'olio, col Shemen HaMishcha, quindi si chiama Kohen Mashuach, ok? Ha trasgredito, è andato contro una delle mitzvot negative, una delle mitzvot che non si possono fare, quindi ha fatto una cosa che non si potrebbe fare, e nello specifico non è solo che ha fatto, ma ha sbagliato nella istruzione di questa mitzvah, cioè non voleva fare la trasgressione, ha interpretato la mitzvah in maniera sbagliata, ok? E non ha solo interpretato, ma ha anche agito in base alla sua istruzione, quindi Hora ha dato un'istruzione, e Asa ha seguito la propria istruzione e ha agito in base a questo, allora lui è obbligato, il Kohen Gadol in questa situazione, quando poi se ne accorge, è obbligato come parte della sua teshuva espiazione portare un par chatat, un toro come korban espiazione, chatat. Ok? Questo è legato, questa mitzvah si applica solo al Kohen Mashuach. Il Kohen che invece è diventato Kohen Gadol con gli abiti e non con l'olio, non porta questo par. Porterebbe un korban normale, come un Kohen normale, che cioè una pecora o una come si chiama? Goat. La capra. O una capra, una pecora o una capra, come un Kohen Hediot, come un Kohen normale che ha fatto una cosa involontariamente contro la Torah. Quindi questa è la differenza tra il Kohen Mashuach e il Kohen Merubbe Begadin. Seconda cosa di questa Mishnah. En ben Kohen Meshamesh le Kohen Sheavar. Non c'è differenza tra un Kohen che è in funzione, Meshamesh, cioè è attivo nella sua Keunah Gedolah. Stiamo sempre parlando di Kohen Gadol. Ok? Cosa succede? Se un Kohen Gadol non può, per un motivo o un altro, continuare la funzione perché diventa invalido, per esempio è diventato impuro, non può portare avanti, allora bisogna nominare subito un altro Kohen Gadol. Quindi è come se avessimo nello stesso tempo due Kohanim Gedolim. Uno è attivo e l'altro è passivo al momento, ok? Quindi Kohen Meshamesh, uno che è in funzione, e uno Avar, uno era in passato in funzione. Il Kohen che adesso si è già ripurificato torna ad essere Kohen Gadol, vero? Ok. Ora diventa il contrario, il Kohen che ha preso il suo posto diventa Kohen Sheavar, che era Kohen Gadol, ma adesso la funzione di Kohen Gadol l'abbiamo ridata a quello che era, lo è sempre stato, ok? Quindi abbiamo un Kohen Gadol principale e abbiamo sempre uno di riserva. Quello di riserva ha fatto funzioni di Kohen Gadol perché c'era un momento in cui quello principale non poteva farlo, ora quello principale è tornato al suo posto e abbiamo sempre quello di riserva che però è già stato investito come Kohen Gadol, quindi si chiama Kohen Gadol Sheavar, che era stato Kohen Gadol. Sheavar è quello che è tornato passato, a essere, sì. È tornato a essere di riserva ma era già stato Kohen Gadol, questo è il punto importante. Qual è la differenza logicamente tra questi due Kohanim Gedolim? La differenza è Ela par Yom HaKippurim, il Kohen Gadol, quello che è attivo, quello principale, Meshamesh, lui è quello che è obbligato a portare il par Yom HaKippurim, il toro sempre di Chatat che viene portato dal Kohen Gadol il giorno di Kippur, questo non può essere portato dall'altro Kohen, quello che era stato, può essere portato solo da quello che è adesso in azione. Sì, okay. Dice abbiamo due coin in Godlin, facciamo la differenza, uno fa questo, uno fa quello. Questo lo può fare solo lui, par Yom HaKippurim. E va a Sirit Ha'efa. Ogni giorno il Kohen Gadol porta un korban farinaceo che si chiama un decimo di una Eifa. La Eifa è una misura ed è il decimo di una misura di Eifa di solet, cioè di farina fine, che viene portata questa misura la metà la mattina e la metà la sera, in corrispondenza al Korban Tamid della mattina e al Korban Tamid del pomeriggio. E questo viene fatto dal Kohen Gadol, si chiama Minchat Chavitin, un tipo di pane che viene formato con questa farina, e questo viene fatto dal Kohen Gadol ogni giorno, solamente il Kohen Gadol che è in funzione e non... Se lui è stanco, dice, vabbè, tanto c'è un altro Kohen Gadol, lo vada a fare lui. No, può essere fatto solo dal Kohen Gadol che è in funzione. Ma per ciò che riguarda, quindi per cosa invece sono uguali i due Kohanim Gedolim, quello in funzione e quello che è passato, sono uguali per ciò che riguarda altri obblighi e divieti del Kohen Gadol. Per esempio, il secondo Kohen Gadol, che ora non è in funzione, potrebbe fare altre cose di Kippur come supporto che lo potrebbero fare normalmente solo il Kohen Gadol, ma se non è il par, se non è quel toro di Kippur che deve fare quello che è in funzione, sono cose che potrebbe fare anche il secondo Kohen Gadol. Quindi potremmo avere due Kohanim Gedolim che fanno delle funzioni durante Kippur. E per ciò che riguarda i divieti, per esempio il Kohen normale sappiamo che non può sposare una donna divorziata, ma il Kohen Gadol non può sposare neanche una donna vedova. E quindi questo si applica anche al Kohen Gadol Sheavar. E una volta sei stato Kohen Gadol non puoi più sposare una vedova, per esempio. Si applicano i divieti del Kohen Gadol. E per ciò che riguarda anche le leggi dell'impurità, quando un Kohen normalmente non deve diventare impuro al morto, non deve essere in contatto o in vicinanza al morto, eccezione parenti stretti, che è permesso. Mentre invece per il Kohen Gadol è vietato anche parenti stretti. E questo si applica anche al secondo Kohen Gadol eventualmente. La differenza è solo par Yom HaKippurim e Asirit HaEfa. Cioè è valido anche con la vedova del fratello? Non potrà. Non potrà neanche no, in quel caso. No, infatti, ottimo, ottimo punto. Domanda, forse mi sfuggito. Sì. Praticamente il Kohen Gadol di riserva viene nominato al momento del bisogno fra i Kohanim che ci sono oppure viene... Ok, allora, quando viene nominato il Kohen di riserva, normalmente il Kohen Gadol ha sempre un assistente. Questo assistente ha anche la funzione di essere il Kohen Gadol di riserva. Sì. Perciò già da prima, cioè, diciamo sì. si sa chi sarebbe il prossimo. Ok? Ok, allora se Dio vuole la prossima volta finiamo il capitolo. Siamo da Yod. Alla Mishnah Yud. Quindi abbiamo visto...